ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. La volta scorsa abbiamo parlato del Minotauro, personaggio che secondo me incarna tutta la tragicità dell'essere uomo. Qualcuno potrebbe obiettare, ma come puoi far assurgere a simbolo della condizione umana un essere che, per sua natura, è per metà bestiale? La mia risposta è: proprio la sua parte bestiale lo rende ancora più umano. L'uomo, infatti, è un essere sospeso fra gli abissi del bestiale e le vette dell'angelico. Alle pulsioni incontenibili, violente della parte oscura e gli slanci sublimi di quella celestiale. È capace di uccidere con crudeltà efferata, ma anche di sacrificarsi con generosa nobiltà. Questa sua condizione intermedia è un privilegio. Gli dà infatti la possibilità di scegliere se salire in alto o scendere verso il basso. In altri termini, lo rende un essere libero, più libero dei bruti, ma anche più libero degli angeli. Non si tratta ovviamente di un pensiero originale, ma di una riflessione condivisa da una lunga tradizione filosofica e spirituale. Una delle formulazioni più affascinanti di tale riflessione è quella che da Pico della Mirandola nel testo che avrebbe dovuto essere il discorso di apertura di un grandioso convegno che non ebbe mai luogo. L'orazione infatti non fu mai pronunciata e fu pubblicata solo dopo la morte del suo autore, morte prematura. Pico della Mirandola morì infatti a soli 31 anni nel 1494, forse avvelenato. Studioso instancabile, conoscitore del greco e delle lingue semitiche, dotato di una memoria prodigiosa, Pico della Mirandola fu uno dei più attivi animatori dell'Accademia Platonica di Firenze. Della Firenze del 400 condivise gli slanci, la passione artistica ed erudita, la fede nell'uomo. Verso la fine del 1486, Pico pensò di radunare a Roma, a sue spese, tutti i più illustri esponenti delle più diverse filosofie e religioni per discutere insieme sulle possibilità di convergenza delle loro posizioni. Egli era infatti convinto dell'esistenza di una verità universale, della quale le varie religioni e filosofie non sarebbero altro che un'espressione parziale. Siamo agli antipodi dagli integralismi che avrebbero afflitto l'età controriformistica e che, ahimè, affliggono anche l'età attuale. Purtroppo la sua apertura verso il pensiero non cristiano risultò molto sospetta al Papa, che impedì la realizzazione del progetto. La Oratio de Hominis Dignitate, l'orazione che avrebbe dovuto aprire l'incontro, è un inno alla libertà, alla dignità, al valore dell'uomo. Ve ne propongo un breve passo. Dopo aver creato il mondo e dato a tutte le creature un posto definito, Dio rende l'uomo libero di scegliere la propria natura e orientare la propria esistenza. Le parole che leggerò sono rivolte da Dio all'uomo, eccole. Né determinata sede, né proprio aspetto, né dono alcuno ti abbiamo dato, o Adamo, affinché quella sede, quell'aspetto, quei doni che coscientemente tu abbia bramato, quelli di tua volontà, tu abbia e possegga. L'altrui già definita natura è costretta entro leggi da noi prescritte. Tu, non costretta entro chiusa alcuna, di tuo arbitrio, nel cui potere t'ho posto, la tua natura ti determinerai. T'ho collocato nel mezzo del mondo perché d'intorno più comodamente tu vegga quello che esiste nel mondo. Non ti facemmo né celeste né terreno, né mortale né immortale, affinché tu ti componga in quella forma che avrai preferita. Potrai degenerare in quelle inferiori che sono brute, potrai, per decisione dell'animo tuo, rigenerarti nelle superiori che sono divine. Leggendo queste parole mi vengono in mente da un lato gli esempi di dedizione, di disinteressato amore di una madre Teresa di Calcutta o semplicemente di una qualsiasi madre che si occupi dei figli o di un magistrato che cerchi di far trionfare la giustizia. Dall'altro mi vengono in mente le crudeltà delle guerre e delle stragi che da sempre insanguinano la terra. Crudeltà che definire bestiale è un insulto alle bestie. Nessun animale, infatti, sarebbe in grado di concepire l'annientamento dei suoi simili con la pervicace e la gelida determinazione dimostrate da un Hitler, per non citare che uno dei tanti esempi. Chi è allora l'uomo? Se lo sono chiesto in tanti. La prossima volta cercheremo anche noi una risposta. A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini.